104. Spaghetti alla rustica. Gli antichi romani lasciavano mangiare l'aglio all'infima gente e Alfonso, re di Castiglia, tanto l'odiava da infliggere una punizione a chi fosse comparso a corte col puzzo dell'aglio in bocca. Più saggi, gli antichi egizi lo adoravano in forma di nume, forse perché ne avevano sperimentate le medicinali virtù, e infatti si vuole che l'aglio sia di qualche giovamento agli isterici, che promuova la secrezione delle urine, rinforzi lo stomaco, aiuti la digestione e, essendo anche vermifugo, serva di preservativo contro le malattie epidemiche e pestilenziali. Però, nei soffritti, state attenti che non si cuocia troppo, che allora prende assai di cattivo. Ci sono molte persone le quali, ignare della preparazione dei cibi, hanno in orrore l'aglio per la sola ragione che lo sentono puzzare nel fiato di chi lo ha mangiato crudo o mal preparato. Quindi, quale condimento plebeo lo bandiscono affatto dalla loro cucina? Ma questa fisima li priva di vivande igieniche gustose, come la seguente minestra, la quale spesso mi accomoda lo stomaco quando l'ho disturbato. Fate un battutino con due spicchi d'aglio e un buon pizzico di prezzemolo e l'odore del basilico se piace. Mettetelo al fuoco con olio a buona misura e appena l'aglio comincia a colorire, gettate nel detto battuto 6 o 7 pomodori a pezzi, condendoli con sale e pepe. Quando saranno ben cotti, passatene il sugo, che potrà servire per 4 o 5 persone, e col medesimo, unito a parmigiano grattato, condite gli spaghetti, ossia i vermicelli asciutti, ma abbiate l'avvertenza di cuocerli poco, in molta acqua, e di mandarli subito in tavola, onde, non avendo tempo di succhiar l'umido, restino succosi. Anche le tagliatelle sono buonissime così condite.